9. Ascolta le frasi e indica se stiamo usando tu o lei. 1. Puoi ripetere, Giorgio? 2. Devi scrivere qui il nome e il cognome. 3. Vuole aspettare, signora? 4. Purtroppo, signore, deve ripetere la prova scritta. 5. Vuoi un cioccolatino? 6. Può aspettare, dottore? 7. Sa guidare? 8. Non devi avere paura. L'esame è facile. 9. Fai colazione al bar o a casa? 10. Sai nuotare? 11. Vuole una rivista? 12. Dici davvero?